Quest'altra prova rinvenir ripotessi, vediamo. Il buon ritratto, tutto non v'è, nulla ne disse, nulla promisi, apra dunque. E ora, Don Alvaro è ferito, ora egli vivo, e di mia mano, vuoi moia, io sono bello e salvo, e salvo, e salvo, a gioia. Seguisti cuore e cuore, chi nel sangue di tuo padre, chi nel sangue di tuo padre, di quel volto rosse già. Ah, dite, ambienterei, se potessi il brando mio, ah, in due d'averno al Dio, un col colpo col saprà, almeno due.